ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Il sarto aveva detto la verità a Don Abbondio intorno all'innominato. Questo, dal giorno che l'abbiamo lasciato, aveva sempre continuato a far ciò che allora s'era proposto: compensar danni, chieder pace, soccorrer poveri, sempre del bene, insomma, secondo l'occasione. Quel coraggio che altre volte aveva mostrato nell'offendere, nel difendersi, ora lo mostrava nel non fare né l'una cosa né l'altra. Andava sempre solo e senza armi, disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse, e persuaso che sarebbe commetterne una nuova, l'usar la forza in difesa di chi era debitore di tanto e a tanti. Persuaso che ogni male che gli venisse fatto sarebbe un'ingiuria riguardo a Dio, ma riguardo a lui una giusta retribuzione. E che dell'ingiuria lui meno d'ogni altro aveva diritto di farsi punitore. Con tutto ciò era rimasto non meno inviolato di quando teneva armate, per la sua sicurezza, tante braccia e il suo. La rimembranza dell'antica ferocia e la vista della mansuetudine presente, una che doveva aver lasciati tanti desideri di vendetta, l'altra che la rendeva tanto agevole, cospiravano invece a procacciargli e a mantenergli un'ammirazione che gli serviva principalmente di salvaguardia. Era quell'uomo che nessuno aveva potuto umiliare e che s'era umiliato da sé. I rancori, irritati altre volte dal suo disprezzo e dalla paura degli altri, si dileguavano ora davanti a quella nuova umiltà. Gli offesi avevano ottenuta, contro ogni aspettativa e senza pericolo, una soddisfazione che non avrebbero potuta promettersi dalla più fortunata vendetta, la soddisfazione di vedere un tal uomo pentito dei suoi torti e partecipe, per dir così, della loro indignazione. Molti, il cui dispiacere più amaro e più intenso era stato per molti anni di non veder probabilità di trovarsi in nessun caso più forte di colui per ricattarsi di qualche gran torto, incontrandolo poi solo disarmato e in atto di chi non farebbe resistenza, non s'erano sentiti altro impulso che di fargli dimostrazione d'onore. In quell'abbassamento volontario la sua presenza e il suo contegno avevano acquistato, senza che lui lo sapesse, un non so che di più alto e di più nobile, perché ci si vedeva ancor meglio di prima la noncuranza d'ogni pericolo. Gli odi, anche i più rozzi e rabbiosi, si sentivano come legati e tenuti in rispetto dalla venerazione pubblica per l'uomo penitente e benefico. Questa era tale che spesso quell'uomo si trovava impicciato a schermirsi dalle dimostrazioni che gliene venivano fatte e doveva stare attento a non lasciar troppo trasparire nel volto e negli atti il sentimento interno di compunzione, a non abbassarsi troppo per non essere troppo esaltato. S'era scelto nella chiesa l'ultimo luogo e non c'era pericolo che nessuno glielo prendesse. Sarebbe stato come usurpare un posto d'onore. Offendere poi quell'uomo o anche trattarlo con poco riguardo poteva parere non tanto un'insolenza o una viltà, quanto un sacrilegio, e quelli stessi a cui questo sentimento degli altri poteva servir di ritegno ne partecipavano anche loro, più o meno. Così quell'uomo sul quale, se fosse caduto, sarebbero corsi a gara grandi e piccoli a calpestarlo, messosi volontariamente a terra, veniva risparmiato da tutti e inchinato da molti. È vero che erano anche molti a cui quella strepitosa mutazione dovette far tutt'altro che piacere. Tanti esecutori stipendiati di delitti, tanti compagni nel delitto che perdevano una così gran forza sulla quale erano avvezzi a fare assegnamento, che anche si trovavano a un tratto rotti fili di trame ordite da un pezzo, nel momento forse che aspettavano la nuova dell'esecuzione. Ma già abbiamo veduto quali diversi sentimenti quella conversione facesse nascere negli sgherri che si trovavano allora con lui e che la sentirono annunziare dalla sua bocca: stupore, dolore, abbattimento, stizza, un po' di tutto, fuorché disprezzo né odio. Lo stesso accade agli altri che teneva sparsi in diversi posti, lo stesso a complici di più alta affare quando riseppero la terribile nuova, e a tutti per le cagioni medesime. Molto odio ne venne piuttosto al cardinal Federico. Riguardavan questo come uno che s'era mischiato nei loro affari per guastarli. L'innominato aveva voluto salvar l'anima sua. Nessuno aveva ragione di lagnarsene. Di mano in mano, poi, la più parte degli sgherri di casa, non potendo accomodarsi alla nuova disciplina, né vedendo probabilità che s'avesse a mutare, se n'erano andati. Ma quando, al calar delle bande alemanne, alcuni fuggiaschi di paesi invasi o minacciati capitarono su al castello a chieder ricovero, l'innominato, tutto contento che quelle sue mura fossero cercate come asilo da deboli che per tanto tempo le avevano guardate da lontano come un enorme spauracchio, accolse quegli sbandati con espressioni piuttosto di riconoscenza che di cortesia. Fece sparger la voce che la sua casa sarebbe aperta a chiunque ci si volesse rifugiare, e pensò subito a mettere non solo questa, ma anche la valle in stato di difesa, semmai Lanzichennecchi o Cappelletti volessero provarsi di venirci a far delle loro. Radunò i servitori che gli erano rimasti, pochi e valenti, come i versi di Torti. Fece loro una parlata sulla buona occasione che Dio dava a loro e a lui di impiegarsi una volta in aiuto del prossimo che avevano tanto oppresso e spaventato, e, con quel tono naturale di comando che esprimeva la certezza dell'ubbidienza, annunziò loro in generale ciò che intendeva che facessero, e soprattutto prescrisse come dovessero contenersi perché la gente che veniva a ricoverarsi lassù non vedesse in loro che amici e difensori. Fece poi portar giù da una stanza a tetto l'armi da fuoco, da taglio in asta che da un pezzo stavano lì ammucchiate, e gliele distribuì. Fece dire ai suoi contadini e affittuari della valle che chiunque si sentiva venisse con armi al castello. A chi non aveva ne diede. Scelse alcuni che fossero come ufficiali e avessero altri sotto il loro comando. Assegnò i posti alle entrature e in altri luoghi della valle, sulla salita, alle porte del castello. Stabilì l'ore e i modi di dar la muta, come in un campo, o come già si era accostumato in quel castello medesimo nei tempi della sua vita disperata. In un canto di quella stanza a tetto c'erano in disparte l'armi che lui solo aveva portate: quella sua famosa carabina, moschetti, spade, spadoni, pistole, coltellacci, pugnali, per terra o appoggiata al muro. Nessuno dei servitori le toccò, ma concertarono di domandare al padrone quali voleva che li fossero portate. Nessuna, rispose, e fosse voto, fosse proposito, restò sempre disarmato alla testa di quella specie di guarnigione. Nello stesso tempo aveva messo in moto altri uomini e donne di servizio o suoi dipendenti a preparare nel castello alloggio a quante più persone fosse possibile, a rizzar letti, a disporre sacconi e strapunti nelle stanze e nelle sale che diventavano dormitori. E aveva dato ordine di far venire provvisioni abbondanti per ispesare gli ospiti che Dio gli manderebbe, e i quali infatti andavano crescendo di giorno in giorno. Lui intanto non stava mai fermo. Dentro e fuori del castello, su e giù, per la salita, in giro per la valle, a stabilire, a rinforzare, a visitar posti, a vedere, a farsi vedere, a mettere e a tenere in regola con le parole, con gli occhi, con la presenza. In casa, per la strada, faceva accoglienza a quelli che arrivavano, e tutti, o lo avessero già visto o lo vedessero per la prima volta, lo guardavano estatici, dimenticando un momento i guai e i timori che li avevano spinti lassù, e si voltavano ancora a guardarlo quando, staccatosi da loro, seguitava la sua strada. Quantunque il concorso maggiore non fosse dalla parte per cui i nostri tre fuggitivi si avvicinavano alla valle, ma all'imboccatura opposta, con tutto ciò, cominciarono a trovar compagni di viaggio e di sventura che da traverse e viottole erano sboccati o sboccavano nella strada. In circostanze simili, tutti quelli che si incontrano è come se si conoscessero. Ogni volta che il baroccio aveva raggiunto qualche pedone, si barattavano domande e risposte. Chi era scappato, come i nostri, senza aspettar l'arrivo dei soldati? Chi aveva sentito i tamburi o le trombe? Chi li aveva visti, coloro, e li dipingeva come gli spaventati soglion dipingere? «Siamo ancora fortunati», dicevano le due donne. «Ringraziamo il cielo, vada la roba, ma almeno siamo in salvo». Ma don Abbondio non trovava che ci fosse tanto da rallegrarsi. Anzi, quel concorso, e più ancora il maggiore che sentiva esserci dall'altra parte, cominciava a dargli ombra. «Oh, che storia!» borbottava alle donne in un momento che non c'era nessuno d'intorno. «Oh, che storia! Non capite che radunarsi tanta gente in un luogo è lo stesso che volerci tirare i soldati per forza? Tutti nascondono, tutti portano via. Nelle case non resta nulla. Crederanno che lassù ci siano tesori. Ci vengono sicuro, sicuro ci vengono. Oh, povero me, dove mi sono imbarcato? Oh, vogliono far altro che venir lassù», diceva Perpetua. «Anche loro devono andare per la loro strada. E poi io ho sempre sentito dire che nei pericoli è meglio essere in molti». «In molti? In molti», replicava don Abbondio. «Povera donna, non sapete che ogni lanzi che necco ne mangia 100 di costoro? E poi, se volessero far delle pazzie, sarebbe un bel gusto, di trovarsi in una battaglia. Oh, povero me, era meno male andar su per i monti. Che abbiamo tutti a voler cacciarsi in un luogo? Seccatori», borbottava poi a voce più bassa. «Tutti qui, e via, e via, e via, l'uno dietro l'altro, come pecore, senza ragione». «A questo modo», disse Agnese, «anche loro potrebbero dir lo stesso di noi». «Chetatevi un po'», disse don Abbondio, «che già le chiacchiere non servono a nulla. Quel che è fatto, ci siamo, bisogna starci. Sarà quel che vorrà la provvidenza, il cielo ce la mandi buona». Ma fu peggio quando all'entrata della valle vide un buon posto d'armati, parte sull'uscio d'una casa e parte nelle stanze terrene. Pareva una caserma. Li guardò con la coda dell'occhio. Non erano quelle facce che gli era toccata a vedere nell'altra dolorosa sua gita, o se ce n'era di quelle, erano ben cambiate. Ma con tutto ciò non si può dire che noia gli desse quella vista. «Oh, povero me», pensava, «ecco se le fanno le pazzie. Già non poteva essere altrimenti, me lo sarei dovuto aspettare da un uomo di quella qualità. Ma cosa vuol fare? Vuol far la guerra? Vuol fare il re? Lui? Oh, povero me! In circostanze che si vorrebbero potersi nascondere sottoterra, e costui cerca ogni maniera di farsi scorgere, di dar nell'occhio. Par che li voglia invitare». «Vede ora, signor padrone», gli disse Perpetua, «se c'è della brava gente qui che ci saprà difendere. Vengano ora i soldati. Qui non sono come quei nostri spauriti che non son buoni che a menar le gambe». «Zitta!» rispose con voce bassa ma iraconda don Abbondio. «Zitta! Che non sapete quel che vi dite! Pregate il cielo che abbiano fretta i soldati, o che non vengano a sapere le cose che si fanno qui, e che si mette all'ordine questo luogo come una fortezza. Non sapete che i soldati è il loro mestiere di prendere le fortezze? Non cercano altro. Per loro dare un assalto è come andare a nozze, perché tutto quel che trovano è per loro, e passano la gente a fil di spada. Oh, povero me, basta. Vedrò se ci sarà maniera di mettersi in salvo su per queste balze. In una battaglia non mi ci colgono. Oh, in una battaglia non mi ci colgono». «Se ha poi paura anche d'essere difeso e aiutato», ricominciava Perpetua, ma don Abbondio l'interruppe aspramente, sempre però a voce bassa. «Zitta! E badate bene di non riportare questi discorsi. Ricordatevi che qui bisogna far sempre viso ridente e approvare tutto quello che si vede». Alla malanotte trovarono un altro picchetto d'armati ai quali don Abbondio fece una scappellata dicendo intanto tra sé: «Oimè, oimè, son proprio venuti in un accampamento». Qui il baroccio si fermò. Ne scesero. Don Abbondio pagò in fretta e licenziò il condottiere e si incamminò con le due compagne per la salita senza far parola. La vista di quei luoghi gli andava risvegliando nella fantasia e mescolando all'angoscia presenti la rimembranza di quelle che vi aveva sofferte l'altra volta. E Agnese, la quale non li aveva mai visti quei luoghi e se n'era fatta in mente una pittura fantastica che le si rappresentava ogni volta che pensava al viaggio spaventoso di Lucia, vedendoli ora quali erano davvero, provava come un nuovo e più vivo sentimento di quelle crudeli memorie. «Oh, signor curato!» esclamò. «E pensare che la mia povera Lucia è passata per questa strada!» «Volete stare zitta, donna senza giudizio!» le gridò in un orecchio don Abbondio. «Son discorsi codesti da farsi qui! Non sapete che qui siamo in casa sua!» «Fortuna che ora nessun vi sente! Ma se parlate in questa maniera!» «Oh!» disse Agnese. «Ora che è santo!» «State zitta!» le replicò don Abbondio. «Credete voi che ai santi si possa dire senza riguardo tutto ciò che passa per la mente? Pensate piuttosto a ringraziarlo del bene che va fatto!» «Oh, per questo ci avevo già pensato. Che crede, che non le sappia un pochino le creanze? La creanza è di non dirle cose che possono dispiacere, specialmente a chi non è avvezza a sentirne. E intendetela bene tutte e due, che qui non è luogo da far pettegolezzi e da dir tutto quello che vi può venire in mente. È casa d'un gran signore, già lo sapete. Vedete che compagnia c'è d'intorno? Ci viene gente di tutte le sorte, sicché giudizio, se potete, pesar le parole e soprattutto dirne poche. E solo quando c'è necessità, che a stare zitti non si sbaglia mai. Fa peggio lei con tutte codeste sue, riprendeva Perpetua. Ma zitta! Le gridò sottovoce don Abbondio e insieme si levò il cappello in fretta e fece un profondo inchino che, guardando in su, aveva visto l'innominato scender verso di loro. Anche questo aveva visto e riconosciuto don Abbondio e affrettava il passo per andargli incontro. «Signor curato», disse quando gli fu vicino, «avrei voluto offrirle la mia casa in miglior occasione, ma a ogni modo son ben contento di poterle essere utile in qualche cosa». «Confidato nella gran bontà di Vossignoria, illustrissima», rispose don Abbondio, «mi son preso l'ardire di venire in queste triste circostanze a incomodarla e, come vede Vossignoria, illustrissima, mi sono preso anche la libertà di menar compagnia». «Questa è la mia governante». «Benvenuta», disse l'innominato. «E questa», continuò don Abbondio, «è una donna a cui Vossignoria ha già fatto del bene. La madre di quella... «Di Lucia», disse Agnese. «Di Lucia», esclamò l'innominato, voltandosi con la testa bassa ad Agnese. «Del bene, io, Dio immortale, voi mi fate del bene a venir qui, da me, in questa casa. Siate la benvenuta. Voi ci portate la benedizione». «Oh, giusto», disse Agnese, «venga a incomodarla. Anzi», continuò, avvicinandosegli all'orecchio, «ho anche a ringraziarla». L'innominato troncò quelle parole, domandando premurosamente le nuove di Lucia, e sapute che l'ebbe, si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece malgrado la loro resistenza cerimoniosa. Agnese diede al curato un'occhiata che voleva dire: «Veda un poco se c'è bisogno che lei entri di mezzo tra noi due a dar pareri». «Sono arrivati alla sua parrocchia?» gli domandò l'innominato. «No, signore, che non gli ho voluti aspettare quei diavoli», rispose don Abbondio. «Sa il cielo se avrei potuto uscire vivo dalle loro mani e venire a incomodare Vossignoria illustrissima». «Bene, si faccia coraggio», riprese l'innominato, «che ora è al sicuro. Quassù non verranno. E se si volessero provare, siamo pronti a riceverli». «Speriamo che non vengano», disse don Abbondio. «E sento», soggiunse accennando col dito i monti che chiudevano la valle di rimpetto, «sento che anche da quella parte giri un'altra masnada di gente, ma... «È vero», rispose l'innominato, «ma non dubiti che siamo pronti anche per loro. tra due fuochi, diceva tra sé Don Abbondio, proprio tra due fuochi, dove mi sono lasciato tirare, e da due pettegole. E costui par proprio che ci sguazzi dentro. Oh, che gente c'è a questo mondo! Alessandro Benvenuti ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.